è disposto, l'ora dovrebbe esser vicina. Io sento gente, ed essa non è alcun. Vui alla notte, ed io comincio mai a fare il scimunito mestiere di marito, che ingrava nel momento della mia cerimonia e godeva leggendo, e nel vederlo io ridevo di me senza saperlo. Susanna, Susanna, quanta pena mi costi, con quell'ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, chi creduto l'avria, ma che il fidarsa donna,